Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La situazione politica, per carità, Radio 24 ha dedicato ieri un lungo speciale dalle 20 in poi alle primarie, e poi mercoledì avremo anche aggiornamenti per quello che riguarda invece il voto alla Camera e al Senato. Ma in realtà devo dire che oggi parleremo della situazione politica anche e soprattutto per la visita che il Presidente dell'Unione Europea, e mi riferisco della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ha fatto oggi a Milano. Ha incontrato il Presidente del Consiglio Enrico Letta. L'occasione era un convegno da un lato, ma dall'altro soprattutto la firma della partecipazione dell'Unione Europea all'Expo di Milano del 2015. Però poi, in un incontro sia ufficiale con i giornalisti che invece più riservato, il Presidente della Commissione Europea ha commentato anche la situazione politica italiana, ma non solo, anche le tensioni ucraine e soprattutto gli sviluppi futuri dell'Europa. Dico già, escludendo che vi possa essere, che possa passare in Europa l'idea di un calcolo, di un deficit, distinguendo tra il deficit cattivo, quello che si fa perché spendi troppo e hai una struttura della pubblica amministrazione poco efficiente, dal deficit cosiddetto buono, e cioè le spese che tu fai per investimenti, per ricerca e sviluppo, per qualcosa che ti serve per aumentare la competitività del tuo paese. Perché Barroso su questo è molto scettico, per non dire negativo, perché dice che all'interno dell'Unione Europea non c'è poi armonia in quello che i singoli paesi possono considerare deficit buono. Ha fatto l'esempio della Francia, che adesso manderà le sue truppe, e l'ha già mandata nella Repubblica Centroafricana. La Francia potrebbe dire che quella spesa è una spesa, diciamo, non da considerarsi come deficit in senso stretto. Altri paesi potrebbero mettere una voce ricerca e investimento, voci che altri paesi non considerano. Comunque, detto questo, scettico sull'ipotesi che si possa arrivare a un nuovo modo per distinguere le spese di un paese, molto positivo sui progressi fatti da Grecia, Irlanda e anche Cipro, critico sull'Italia perché ancora persiste un problema di debito. Ha detto chiaramente Barroso, non si può incolpare la Germania se l'Italia ha accumulato questo debito. Ancora sul fronte della politica strettamente italiana si è tenuto molto molto cauto e ha detto in sostanza: ho incontrato Renzi, lo conosco bene, ma soprattutto ho grandissimo, un ottimo rapporto e molta ammirazione per il Presidente del Consiglio Enrico Letta e per il suo sforzo verso l'Europa. Quello che serve all'Italia, qualunque sia il governo, centrodestra, centrosinistra, serve un governo che governi per un periodo di tempo più lungo. Altri paesi risultano più credibili perché cambiano meno velocemente, diciamo, coalizione politica e soprattutto anche Presidente del Consiglio. Questo per quello che riguarda la posizione europea. Parleremo invece anche appunto della situazione politica e poi per quello che riguarda invece i mercati, segnalo il botto oggi del Monte dei Paschi, più 4,80%. Attenzione, il titolo ha perso il 30% nell'ultimo mese. C'è l'annuncio della fondazione del Monte dei Paschi di Siena che chiede di spostare l'aumento di capitale di qualche mese. Vedo che alcuni collegano la vittoria di Renzi alle primarie con Monte dei Paschi. Mi sembra un volo quanto mai pindarico, per cui attenzione ai cortocircuiti. Bene anche Fondiaria SAI, più 3,80%, Saipem più 3%, Finmeccanica più 2,80%, Atlantia più 2%, come Ubibanca, EA2A e Ansaldo, STS, Prismian più 1,90%, TOZ più 1,80%, Ferragamo più 1,70%, Telecom più 1,60%, Pirelli 1,5% di rialzo, come il Banco Popolare. Chi va male? Parmalat perde l'1,1%, ST Microelectronics l'1%, CNH Industrial meno 0,80% come Diasorin. L'euro è in rafforzamento a quota 1,3720. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Allora, vedo che alcuni ci chiedono circa il tema dell'accordo tra venerdì e sabato che la WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha siglato a Bali. Un accordo storico che coinvolge tutti i 160 paesi membri per realizzare un programma di liberalizzazione degli scambi commerciali, quello che fu firmato nel 2001 a Doha, ma poi rimasto fino ad oggi sostanzialmente lettera morta. Il via libera è arrivato dopo che Cuba ha lasciato cadere in extremis la minaccia di veto posta inizialmente. Le misure saranno applicate dal luglio 2014 e il WTO stima in 1.000 miliardi di dollari la ricchezza che il pacchetto Bali permetterà di generare anche attraverso la creazione di 20 milioni di posti di lavoro. I costi degli scambi dovrebbero ridursi del 10-15%. Che cosa prevede il pacchetto? Sopprimere i dazi per i paesi in via di sviluppo che esportano verso le nazioni più ricche, semplificare i procedimenti doganali burocratici e poi la possibilità anche di accumulare derrate alimentari per scongiurare carestie. Altri dati che arrivano dall'Europa, oggi il superindice OCSE, riferito al mese di ottobre, ha mostrato segnali di un miglioramento nelle prospettive economiche nella maggior parte dei paesi ed in particolare in Francia e in Italia, dove si continua a registrare un cambiamento positivo nello slancio. Oggi il dato sulla produzione industriale tedesca vede un calo a sorpresa, meno 1,2% nel mese di ottobre contro attese di un rialzo dello 0,7%, e su base annua l'indice della produzione industriale tedesca è cresciuto dell'1%, che è di molto inferiore alle stime previste, che erano di un più 3%. Non ho detto gli indici delle borse, avete ragione, più 0,65% Milano, invariata Parigi, più 0,20% Francoforte, più 0,1% Londra e più 0,1% anche l'America. Ancora dall'Italia invece, la Banca d'Italia, e questo è un tema di cui parleremo più avanti, oggi fa notare come i prestiti delle banche alle imprese abbiano segnato un calo storico, ossia hanno fatto a ottobre quasi meno 5%, meno 4,9% rispetto a un anno prima, mentre per le famiglie il calo dei prestiti è dell'1,3%. Quindi meno 5% lo segnala la stessa Banca d'Italia, è un dato storico quanto a calo. Però il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, oggi a margine di un evento a Napoli e al microfono del nostro Carmelo Prete Simone, ha detto: sì, attenzione, il segnale è un segnale di un grosso disagio, però sono anche le imprese in difficoltà a chiedere meno finanziamenti alle banche. È un segnale preciso del disagio che c'è nel paese, le famiglie non investono più, le aziende non investono più e quindi non hanno bisogno. E d'altronde in un paese che ha perso il 25% dei volumi manifatturieri e tutti abbiamo imprenditori, abbiamo delle capacità produttive libere, disponibili, e quindi crederci di fare degli investimenti in questa situazione non sia. Bisogna far ripartire la crescita nel paese. La stretta del credito forse? Ma non mi sembra neanche che a questo punto si possa dire questo, perché in effetti vedete le banche confermano che hanno liquidità e che non hanno domanda per l'utilizzo delle liquidità, quindi il problema è un problema più generale di che bisogna far ripartire il paese e di far ripartire i consumi interni. Ancora Ancora per quello che riguarda invece il mercato dei giochi, oggi si segnala una prima battuta d'arresto da quando è stato liberalizzato, ossia dal 2004. Il primo saldo negativo in termini di raccolta si attesta a 85 miliardi di euro, la raccolta complessiva sono 2 miliardi in meno rispetto a un anno fa. E sono in calo tutti i giochi, ad eccezione del lotto che fa registrare un segno più. La protesta dei forconi, vi stanno aggiornando da questa mattina i nostri GR, una protesta che è dilagata in tutta Italia, con blocchi e presidi da nord a sud. La situazione più critica, tra le altre cose, a Torino, stamattina dopo che i manifestanti avevano occupato il centro, hanno invaso i binari delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, tafferugli con la polizia a Piazza Castello, bloccati i binari ferroviari anche in Liguria, a Genova, Brignole, a Imperia, Alma di Taggia, Diano Marina, chiuso sulla tre lo svincolo di Battipaglia. E da questo punto di vista vedo anche molti messaggi, mi scrivono molti dal Veneto e dicono: noi non siamo i forconi ma siamo i veneti della Life, e siamo tutti è la Life che quella Lega contro, diciamo, il peso fiscale. Non sono i forconi ma tutto il Veneto. Sì, adesso io ritengo che la protesta si possa fare in altri modi, non bloccando il traffico e creando disagio per altri cittadini. Il voto è un elemento per esprimere anche la propria protesta. E poi vorrei capire esattamente il programma politico dei forconi, perché tutti siamo arrabbiati e tutti siamo preoccupati per la situazione. Dopodiché c'è modo e modo di reagire, ma non lo dico per essere pilatesco, lo dico perché la penso esattamente così. Andando avanti, invece, vorrei, al di là della protesta dei forconi, raccontare, oggi abbiamo tanti temi, non voglio dilungarmi troppo, però da un lato una segnalazione che ci arriva quanto a sprechi da un ascoltatore, dall'altro invece, col massimo rispetto, però oggi il ministro Brai, in merito alla vicenda Pompei, ha annunciato che sarebbe arrivato, che arriverà come direttore generale del progetto Pompei, il generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, già alla guida del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. E è una buona notizia, sì, perché di solito quando arrivano i generali dei Carabinieri, abbiamo visto nel passato nelle ASL perlomeno i conti improvvisamente migliorano. Però vorrei raccontare che cosa ha fatto il precedente commissario straordinario di Pompei, visto che continuamente raccontiamo di una Pompei che perde i pezzi. Beh, forse era distratto su altro. Perché c'è un'inchiesta della magistratura in cui è coinvolto e accusato di abuso d'ufficio continuato l'ex commissario straordinario a Pompei. Si chiama Marcello Fiori e alcuni di voi lo hanno sentito in questi giorni, perché attualmente è l'organizzatore dei club di Forza Silvio. Benissimo l'attività, però ci dovrebbe spiegare Marcello Fiori perché comprò un'enorme partita di vino, si chiamava Villa dei Misteri, che già il nome evoca, cioè 1000 bottiglie di vino da 55 euro l'una, per cui non poca roba, per chi conosce il vino siamo già su una fascia alta di vino, 1000 bottiglie da 55 euro l'una, quindi 55.000 bottiglie, euro di bottiglie, perché li ha regalati per un terzo in giro alle ambasciate e ai consolati italiani e per due terzi lasciate in un magazzino dove le ha trovate nel 2010 la nuova sovrintendente, perché lui nel 2010 poi non era più commissario. Allora, pensate che l'esborso sarebbe stato sufficiente a pagare per un anno tre archeologi a Pompei, ce n'era solo uno, e dedicarli alla cura dei 66 ettari e le 1500 domus del sito. Però si è preferito spendere, ripeto, 55.000 euro di vino da regalare, un terzo alle ambasciate e, un terzo, e due terzi lasciarli, lasciarli nel, nello scantinato, nel magazzino, magari perché si sperava che così col passare del tempo ne aumentasse il valore, non lo so. Pensate che le macchie della gestione amministrativa riguardano tanti altri soggetti, appunto, e sono nel mirino dei, dei magistrati. Tra l'altro Fiori avrebbe speso tra novembre 2009 e luglio 2010 102.000 euro per il progetto Cave Canem. Che cosa serviva? Beh, a censire i cani di Pompei. No, non sto scherzando. I cani di Pompei. 55 i cani censiti, iscritti all'anagrafe canina, curati e vaccinati durante i 9 mesi della durata del progetto. E che va anche bene, per carità. 26 di loro sono stati adottati, si legge nel comunicato, e vivono felici nelle nuove famiglie. Beh, bisognerebbe chiedere ai cani. Ma comunque, al di là di questo, il problema è che per ogni cane il commissario d'allora di Pompei ha speso 1.872. Ora, va bene l'amore per gli animali, euro, va bene l'amore per gli animali, ma insomma spendere 100.000 euro per 55 cani ci sembra troppo, troppa grazia. E poi però ci segnalano gli ascoltatori che molti randagi sono ancora a Pompei. E poi ancora 81.000 euro spesi, 9.600 dei quali al ristorante Il Principe per organizzare l'accoglienza per la visita del Presidente del Consiglio. A parte che 81.000 euro sono tanti se devi gestire Pompei e questi soldi li puoi usare da altre parti, ma la cosa interessante è che non è mai avvenuta la visita del Presidente del Consiglio, non c'è mai stata quella visita, per cui questi 81.000 euro, di cui 9.600 al ristorante Il Principe, vorremmo capire per cosa li ha spesi. Poi ne ha spesi 12.000 per rimuovere 19 pali della luce, 1.800 euro per le divise degli autisti a disposizione del commissariato, del commissario, scusatemi. E poi ha stipulato un contratto di 5.755.000 euro alla Wind per la fornitura dei servizi pubblici di connettività, cioè le linee telefoniche. 5 milioni di euro, 5 milioni e 700.000 euro. E 3 milioni e 100.000 euro a Wind per il progetto Pompei Viva. Questo per quello che riguarda Pompei. Poi segnalo quello che ci ha scritto un ascoltatore. Voi scrivete, noi verifichiamo. E cioè, c'è una il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Esercito, Reparto Impiego delle Forze, Centro Operativo Esercito, ha aperto una procedura di acquisto tramite il mercato elettronico per 160 orologi Lawrence modello 26651AA a base d'asta 10.560 euro. Sono fondamentali? Chiedo al Ministero della Difesa, sono 10.560 euro, per carità non cambia molto, sono sempre 10.560 euro. Allora, molti di voi vorrebbero che facessi la puntata sui forconi e sui disagi che stanno creando in tutta Italia. No, ho altri temi, vi daremo continui aggiornamenti. E partiamo dagli altri temi, mi riferisco oggi alla visita del Presidente del Consiglio Europeo Barroso a Milano, l'incontro con Letta e poi colloquio più o meno informale che ha avuto anche con il sottoscritto. Prima di tutto però una nota sull'Europa. Oggi l'ex Presidente del Consiglio e l'ex e quello che aveva il ruolo di Barroso a suo tempo, mi riferisco a Romano Prodi, oggi ospita Mix 24 per quello che riguarda l'Europa, ha detto beh, fatta così non mi piace, occorre ripensarla e fare una seria alleanza. L'Europa che abbiamo fatto noi era diversa, è un'Europa equilibrata, è un'Europa in cui le istituzioni europee erano importanti, poi sono diventati importanti i governi nazionali e non le istituzioni europee. Adesso è burocrati. Siamo nella terza fase in cui è diventato importante il governo tedesco, questa è un'altra Europa. Ecco, ma questa Europa le piace? No, l'Europa è una grandissima cosa e quindi dobbiamo sostenerla, certo, ma dobbiamo cambiarla, perché la Germania in questo momento ha la forza superiore a tutti, ma non si rende conto della responsabilità che questa forza deve assumere. Diciamo. Letta deve andare in Europa e battere i pugni, questo sta dicendo. Battere i pugni, insomma, per modo di dire, però va bene. Ma io no, attenzione, i pugni non si battono mai, se no ti si rompono le mani. Si trovano alleati per battere i pugni. La mia tesi è diversa. Francia e Spagna hanno gli stessi nostri problemi, anche se fanno finta di non averli, soprattutto la Francia. Per salvare la situazione bisogna avere pazienza, ma costruire una seria alleanza. Devo dire che la Francia abbia problemi simili all'Italia, modestamente lo ricordiamo anche noi, nel senso che poi si tiene agganciata la Germania nella speranza di non essere travolta. Però detto ciò, l'incontro tra Barroso, Presidente della Commissione Europea, e il Premier Enrico Letta. Letta ha detto l'Expo di Milano avrà lo stesso impatto delle Olimpiadi di Roma del 1960, l'Italia dimostrerà che il paese è tornato a crescere, questo mentre firmava il contratto di partecipazione all'evento della Commissione Europea. Barroso ha comunque confermato il suo impegno per Expo 2015 perché avrà un impatto mondiale sui temi come la sostenibilità ambientale e quella alimentare. Expo Milano contribuirà anche a prepararci meglio per far fronte insieme alle pesanti sfide che ci aspettano in materia di sviluppo sostenibile e di alimentazione a livello planetario. Questo evento sarà anche l'occasione per l'Unione Europea, che parteciperà con il motto «Coltiviamo insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore», per sensibilizzare l'opinione pubblica alle questioni legate alla qualità e alla sicurezza alimentare, così come le questioni di salute pubblica, in senso più lato, per sviluppare un dialogo con i cittadini sull'Europa, le sue politiche, il suo avvenire. Voi potete essere certi che la Commissione Europea assicurerà il suo impegno per il miglior successo di Expo Milano 2015 e che veglierà affinché il suo impatto duri a lungo. Questo per l'Expo, ma in realtà si è parlato sia ufficialmente che off the records, come si dice in gergo, quindi fuori, diciamo, dai registratori, dai giornalisti, anche e soprattutto del futuro dell'Unione Europea. Non mi cito mai, ma eravamo presenti anche noi a questo pranzo informale e con, diciamo, il riservo che appartiene alla mia categoria, adesso ve lo raccontiamo tutto. No, scherzo, perché i temi toccati da Barroso li aveva toccati anche ufficialmente. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Roberto Quadrocurzio, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera, grazie per l'invito. No, ecco, era anche lei, inutile un mistero, era anche lei a questo pranzo con Barroso. Adesso non voglio rompere il vincolo di segretezza su quello che è stato detto, però alcuni temi, diciamo, ha ribadito alcune cose che possiamo tranquillamente raccontare. Prima di tutto però vorrei far ascoltare un Enrico Letta che oggi, proprio nell'incontro con Barroso, ha detto: attenzione, gli anti-europeisti miopi fanno macerie, perché su questo a mio avviso anche Barroso era molto preoccupato. Dico subito che ha detto: l'anno prossimo sarà un anno migliore da un punto di vista economico, ma forse peggiore da un punto di vista politico. Ci sono le elezioni europee e i movimenti anti-europeisti continuano a montare anche per alcune colpe dell'Europa stessa, e diciamola tutta. Comunque, Enrico Letta. Nei prossimi 10 anni l'Europa può decidere se essere ancora influente e decisiva nel mondo oppure se essere frammentata e ininfluente. O noi europei siamo uniti e ci rendiamo conto del fatto che è più ciò che ci unisce di ciò che ci divide, e che a quei livelli noi dobbiamo rendere forti e vincenti i valori europei far sì che i nostri valori europei riescano ad influenzare le decisioni del mondo. Fermarsi a guardare la pagliuzza della differenza che c'è tra noi e i tedeschi, tra i francesi e gli inglesi, tra i portoghesi e gli sloveni, rispetto alla grandezza ormai della sfida globale, è pura miopia, che può servire a far vincere una singola campagna elettorale sfruttando la fatica sociale che oggi c'è nella nostra Europa, ma alla fine costruirà soltanto macerie. In questo senso la sfida che noi oggi abbiamo di fronte è una sfida politica straordinariamente coinvolgente. Allora, professor Quadrio Curzio, resti con noi, ho il meteo, la pubblicità, poi il suo commento, anche la sua impressione, con quello che si può dire, di come ha trovato il presidente della Commissione Europea Barroso, e soprattutto anche sulle non illusioni, perché qua vedo montare tutto un movimento, ma attenzione, poi bisogna capire se questa cosa è praticabile o no, per esempio un'Europa che consideri il deficit in maniera diversa. Dopo il metro, la pubblicità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parleremo anche dei forconi, però abbiate pazienza, non è che qui il programma lo fa chi più scrive sms, e lo dico anche chi sta scrivendo continuamente che i poliziotti del reparto mobile si starebbero togliendo gli elmetti e passando con i manifestanti. Ma noi abbiamo trovato in rete un video e non si riesce neanche a capire perché un poliziotto leva l'elmetto, può essere per vari motivi, cioè non è che se voi scrivete una cosa noi dobbiamo dar ragione a voi perché i forconi hanno sempre ragione. Attenzione, è anni che questo programma critica le malversazioni della cosa pubblica. Da lì a dire che la protesta giusta è paralizzare il traffico in Liguria, in Piemonte, in Veneto, ferroviario e dell'autotrasporto, ce ne passa. Continuate a chiedere, ma allora lei cosa farebbe? Esiste il voto nelle democrazie, perché non è in altri paesi ogni volta si va in piazza. Siamo una democrazia, c'è il voto, manifestazioni regolari sono consentite, bloccare il traffico di mezzo paese con un programma che non ho ancora capito cosa sia, non me ne frega nulla se mi insulterete, ma insomma dentro questa protesta ci sono, secondo il Viminale, non secondo il sottoscritto, diverse organizzazioni, dai sindacalisti di Trasporto Unito, che non hanno accettato l'accordo del giorno scorso, a aderenti di Forza Nuova e Casa Pound, quindi dell'estrema destra. Ci sono i movimenti del Life, o Life per essere più corretti, del Nord-Est, cioè c'è di tutto, per cui io non ho capito e confesso la mia ignoranza, al di là della protesta, quale sia la proposta. Professor Quadrio Curzio, allora veniamo invece a un Barroso che ha gelato ogni ipotesi che l'Italia possa chiedere un deficit calcolato diversamente, ha elogiato Irlanda, Spagna e Cipro per Grecia per i progressi fatti e ha detto all'Italia non date tutte le colpe alla Germania, ho capito bene? E soprattutto lei che impressione ha ricevuto, visto che era anche lei a questo pranzo? Ma guardi, quello che lei ha detto è certamente quanto Barroso ha detto pure e ha comunque fatto intendere. Successivamente a tutto ciò, sullo sfondo di tutto ciò, mi è sembrato che per quanto riguarda la posizione della Commissione europea, come forse era ovvio ma non del tutto giustificato, egli ha affermato che la Commissione ha operato benissimo durante la crisi e che ha portato avanti una serie di importanti innovazioni che hanno consentito di tamponare la crisi prefigurando una crescita nel 2014. Per quanto riguarda le posizioni di Italia e di Germania, non tanto perché siano questi due paesi che esauriscono l'Unione Europea, sulla Germania ha detto che è un paese che ha fatto grandi riforme, che cresce e che ha una bilancia commerciale molto attiva, e insomma è stato molto laudativo e io non ricordo che abbia fatto alcuna osservazione critica sulla Germania, tra l'altro lasciando anche cadere il discorso riferito alla unione bancaria che sappiamo la Germania osteggia. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto le critiche ben note, forse aggiungendone un'altra, e cioè che tutto sommato l'Italia non dà ancora affidamento ai mercati finanziari, perché i mercati non sono convinti che l'Italia saprà fare le riforme. Quindi direi che la sua è una posizione, oserei dire, molto germanocentrica. Può essere giusta, può non essere giusta, ma certamente germanocentrica. Ed egli ha anche affermato che la Germania è un paese fortemente europeista e che dunque dobbiamo aspettarci dalla Germania ogni bene, più o meno. Sì, devo dire per quello che conta nella mia opinione, cioè nulla, che anch'io sono rimasto un po' sorpreso nel vedere che insomma non ci fosse né autocritica. Gli è stato anche fatto notare che di tutte le aree geografica al mondo l'Europa è quella che cresce meno, che ha più problemi a uscire dalla recessione, che ha la disoccupazione più alta ed è l'unica che ha seguito la ricetta tedesca di rigore, rigore, rigore, eppure no, dice il debito italiano non è colpa della Germania, ha ragione, i problemi nostri non sono colpa della Germania, ma diciamo che la posizione tedesca ne ha aggiunti degli altri, possiamo dirla così. Ecco, esattamente così. Anche molto scettico, anzi praticamente contrario all'ipotesi che si possa considerare un distinguere tra deficit buono, sì, ossia quello che le spese che tu fai per aumentare la competitività di un paese, investimenti, esatto, ricerca, sviluppo, esatto, dal deficit cattivo, cioè gli sprechi della pubblica amministrazione, esatto, l'inefficienza della macchina pubblica anche regionale e locale. Professore. Sì, egli ha detto questo e la sua affermazione, per dimostrare la validità della sua affermazione, è stato che è molto difficile distinguere quali sono effettivi investimenti da quelli che sono spese correnti. Ora, credo che non sia molto difficile, dal momento che la stessa Unione Europea amministra un bilancio di circa 1.000 miliardi in 7 anni che fa nette distinzioni tra le spese infrastrutturali per investimenti rispetto alle spese correnti. Lo stesso fa la Banca Europea degli Investimenti, che è particolarmente esperta nel finanziare gli investimenti stessi, ma che certo non finanzierebbe mai la spesa corrente. Quindi bisogna anche capire chi sia il controllore, perché io credo che se il controllore per distinguere spese correnti da spese di investimenti fosse Similbei, la distinzione sarebbe facilissima. La BEI ha un'esperienza di 50 anni a distinguere quali sono effettivi investimenti, dunque nessuno. La Banca Europea degli Investimenti, certo. Sì, la Banca Europea degli Investimenti. Allora, vorrei, visto che poi adesso entriamo anche nella parte, oltre che del commento di borsa, anche di commento della situazione politica italiana, della legge di stabilità, gli emendamenti e quant'altro, dopo il traffico, professor Quadrocurzio, vorrei un'ultima opinione sul giudizio che Barroso ha dato sulla situazione politica italiana, anche qui molto netto, e su quello che sta capitando in mezzo paese. Devo dare però una risposta, scusatemi, ma no, dico agli ascoltatori, cosa vuol dire che tanto con la legge elettorale anticostituzionale non esiste la democrazia in questo paese? Questa legge, la Corte Costituzionale, il Porcellum, che già il nome dice tutto, l'abbiamo criticata 1000 volte. La Consulta ha detto che è anticostituzionale, perfetto, ma non mi potete dire che in questo paese non esiste la libertà di voto, voglio dire, non siamo l'Ucraina. Allora, poi andate a vedere tutti i risultati elettorali degli ultimi anni e anche le proiezioni adesso e mi dite se il paese ha, diciamo, questo impeto rivoluzionario di mandare a casa tutta la classe politica vecchia, oppure se, a parte il Movimento 5 Stelle, che è stata la vera novità, tutto sommato, voglio dire, c'è una buona parte del paese che ancora vota e ne ha tutti i diritti, il PD e il PDL, perché io vedo questo quando vedo le elezioni, e non è che se ci sono alcuni migliaia di persone, di forconi o non forconi, che protestano e bloccano il paese, no, adesso dobbiamo pensare che tutto il paese vuole ribellarsi. Ritengo che la via migliore siano le manifestazioni democratiche, che si possono fare, e poi il voto traffico. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, vedo che scrive, c'è chi scrive, se però facciamo proteste educate e civili non se le fila nessuno, bisogna usare... Allora, questo cosa vuol dire? Che l'alternativa cos'è? Assaltare il palazzo d'inverno? Fare l'assalto alla Bastiglia? Cioè, non mi sembra che la storia ci insegni che dopo l'insurrezione popolare con i forconi siano arrivati i regimi democratici. dopo il palazzo d'inverno si sono beccati il comunismo e non Lenin, Stalin, e dopo la presa della Bastiglia gli anni del terrore, no? Allora io dico, in altri paesi si protesta, si blocca tutto quello che volete, ma non è da lì che arriva la proposta politica, arriva dal voto. Allora, volete mandare a casa una classe dirigente politica che ha fallito? Mandatela a casa con il voto a tutti i livelli, amministrativo, politico, nazionale, europeo. Poi vedi che il paese per due terzi si rivolta a quelli di prima. Allora di cosa stiamo parlando? Comunque, Quadro Curzio, c'è stata secondo lei, e c'è secondo lei, una sottovalutazione da parte di Barroso in realtà della pentola che sta bollendo in alcuni paesi europei? Perché io poi invito tutti a utilizzare mezzi civili e democratici per quel poco che conto. Però è innegabile che un'Europa, l'Europa sembra sempre più sorda, diciamo, ad alcune esigenze. Lui si diletta a dire, al sud la pensate in un modo, al sud dell'Europa, al nord in un altro. Ho capito, però poi le rivolte, le proteste le hai da chi ha la pancia vuota, non da chi ha la pancia piena. No, non c'è dubbio che la situazione della disoccupazione e del malessere sociale in Europa ha raggiunto livelli limite. E il fatto che Barroso porti a dimostrazione che il risanamento è stato ottenuto con successo in Grecia è un'affermazione molto discutibile, non tanto perché la Grecia non dovesse mettere ordine nei propri bilanci pubblici notoriamente piuttosto scassati, oltre che formulati in modo fraudolento e falsificato, ma perché si poteva arrivare a un risultato di risanamento della Grecia con delle modalità meno potenti, meno traumatiche. Detto questo, alle domande che andavano ad evidenziare la necessità di politiche per la crescita, la risposta era sempre: la crescita si ha solamente col cosiddetto consolidamento fiscale e con le riforme. E io credo che sia molto limitante questa visione perché, ripeto, la spesa per investimenti non è spesa corrente, non è spesa che va a gravare solamente. Non sono sprechi, lato, diciamo. Esatto, non è il lato delle uscite, ma poiché gli investimenti generano reddito, anche se ci vuole un po' di tempo, ebbene gli investimenti buoni si autoripagano nel tempo. Se si fosse ragionato con un conto puramente come dire, figurativo, ragionieristico, che ogni spesa, quale che essa sia, non è distinguibile tra investimenti e spesa corrente, e noi oggi probabilmente ci troveremmo senza infrastrutture. Dunque il fatto è che bisogna capire che gli investimenti rendono nel tempo, non rendono oggi, ma rendono nel tempo, favoriscono la crescita, favoriscono l'occupazione. Secondo me questo braccio dell'Unione Europea, ahimè, è un braccio anch'ilosato. Sì, e poi anche io sono d'accordo con lei, professore, anche perché Barroso e l'Europa tecnocratica dimentica che gli Stati Uniti hanno seguito un'altra ricetta, cioè non esiste solo la ricetta nostra, metti a posto i conti poi vedrai che cresci, intanto bisogna vedere come ci arrivo, quanto ci metto e cosa succede al paese, all'opinione pubblica, e poi altre ricette dicono attenzione, quando c'è la recessione spendi un po' di più e poi metti a posto i conti quando cresce il paese. Insomma, c'è questa, tutti apodittici, tutti nati imparati anche in Europa, come si dice a Roma. Io devo chiudere tra 30 secondi. Ringrazio il professor Alberto Quadro Curzio anche per l'analisi. Chiudo questa prima parte, poi ci sentiamo dopo il GR con una battuta di un ascoltatore. Forconi o no, per ora stanno vincendo le forchette, cioè chi il cibo ce l'ha. Nel centro nord Europa. Ecco, vorremmo evitare una contrapposizione tra, diciamo, il sud dell'Europa e il nord dell'Europa, perché così finisce decisamente l'Europa. Ci risentiamo dopo il GR per la borsa e per il commento della situazione politica italiana. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Commentiamo adesso la borsa e poi la situazione politico-economica italiana, anche citando le manifestazioni dei forconi cosiddetti, che dentro hanno di tutto, però non facciamo solo la puntata su questo. Allora, vedo molti messaggi, alcuni di questi risponderò. Per quello che riguarda la borsa, la chiusura, come raccontavamo in apertura del programma, è stata positiva, più 0,90%, Parigi più 0,11%, Francoforte più 0,25%, Londra più 0,11%, l'America più 0,13%. E poi perché l'Italia ha almeno mezzo punto percentuale più delle altre borse? Beh, il motivo si chiama soprattutto Monte dei Paschi di Siena più 4,91%, ma anche Fondiaria Saipem più 4%, Saipem più 3,5%. Come Finmeccanica, UbiBanca più 2,40, Ansaldo più 2,20 come Atlantia, il Banco Popolare guadagna il 2,1 come A2A, ma anche Ferragamo e Toz. Negativa Parmalat dell'1,12%, ST Microelectronics meno 1, CNH Industrial meno 0,50, Fiat meno 0,40%. Devo dire che l'euro oggi si è rafforzato a 1,3725. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Partiamo dal Monte dei Paschi, perché ho letto un po' di tutto oggi, tra cui il fatto che il Monte dei Paschi guadagnerebbe perché Renzi ha vinto le primarie. Io capisco che ormai il paese, no, però cerchiamo di mantenere un po' di serietà se ci riusciamo, almeno in questo programma. Mi sembra che il motivo vero sia l'annuncio della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che chiede di spostare l'aumento di capitale di qualche mese, però dimmi tu. Beh, certamente questo ha un po' diciamo così scombussolato i piani o quella che era la visione del mercato rispetto all'aumento di capitale e a quello che poteva succedere in tempi brevi sul titolo. Quello di oggi è più che altro una reazione, un rimbalzo a una performance che aveva visto il titolo perdere quasi il 30% in un mese e circa il 13% in una settimana. In realtà l'indicazione e la richiesta della fondazione è stata accolta negativamente da alcuni analisti secondo il cui questo porterebbe un'ulteriore incertezza, però certamente è stata una reazione del mercato a questa richiesta. Vedremo se avrà del seguito nei prossimi giorni. Per il momento si tratta soprattutto di un rimbalzo su un titolo molto molto penalizzato. Sì, che tra l'altro ha perso il 30% nell'ultimo mese. Esatto. Adesso, senza nessun giudizio politico, ma attribuire anche a Renzi il rialzo del Monte dei Paschi, no, diciamo di uomini della provvidenza ne abbiamo già avuto uno e si è visto che fine ha fatta. Restiamo sulle cose che dice Renzi a livello politico e lasciamo la finanza fuori da questo quando si muove per altri motivi. Bene, dicevo anche Fondiaria Sai e Saipem. Sì, per quanto riguarda Fondiaria Sai si tratta anche qui di un rimbalzo e di una riscoperta del titolo che piano piano negli ultimi giorni sta un po' recuperando terreno. Per quanto riguarda invece Saipem c'è stata la comunicazione da parte della Consob che ha per il momento che ha chiuso la procedura in corso sui bilanci 2012. Saipem aveva già nell'ultima trimestrale aggiustato diciamo così le indicazioni di bilancio secondo quelle che erano le richieste di Consob. Anche qui è un titolo che sta viaggiando molto in altalena nelle ultime sedute tra chi diciamo vede nella possibilità di vendere le attività di perforazione alla norvegese Seadrill come positive e tra quelli che invece sperano in una Saipem che piano piano recuperi contratti profittevoli, e quindi il titolo si sta un po' muovendo in altalena tra le speranze e le incertezze, diciamo. Ancora Generali, bene oggi l'andamento, poi è un po' ritracciato, lo citavamo in precedenza, più 0,90%. C'è però un'accelerata al processo di vendita della Banca Svizzera Italiana, no? Così dicono le indiscrezioni dei giornali degli ultimi giorni. Chiaramente il mercato pensa che sia un'ottima notizia questa, nel caso in cui si arrivasse a una dismissione per il quale si punta, almeno secondo l'indiscrezione, a una valorizzazione di 1,6 miliardi. Il titolo ci ha creduto per buona parte della seduta, poi si è un po' adagiato diciamo così sui livelli del FTSE MIB, infatti ha chiuso perfettamente in linea con il FTSE MIB, ma quello della vendita di BSI è sicuramente uno dei fattori che il mercato sta guardando con attenzione per quanto riguarda le generali. Ancora per quello che riguarda i titoli negativi, citavamo appunto Parmalat meno 1,1, ST Microelectronics meno 1, CNH Industrial meno 0,50, Fiat meno 0,40%, nel giorno in cui però il gruppo Fiat, secondo l'agenzia Bloomberg, e investirà fino a 9 miliardi di euro in Europa entro il 2016. varie indiscrezioni di Bloomberg, appunto, sarà sostituita dalla Fiat 500 5 porte prodotta in Polonia, le nuove Alfa Giulia entro 2016 destinate all'export, e l'obiettivo di raggiungere il break even, il pareggio, sarà delle attività europee entro 2016. Migliori e peggiori in assoluto: KR Energy più 22%, Digital Brothers più 11,40%, Energy Capital più 9%, Roma Calcio più 5,5% dopo il campionato, P Quadro più 5%, Monte Paschi appunto più 4,91%. I peggiori: la Save meno 16%, Beghelli meno 4,40%, Mittal meno 4,12%. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso torniamo sulla situazione politica italiana, sullo scenario politico tenuta del governo Letta, ma anche e soprattutto la legge finanziaria, visto che gli emendamenti da esaminare in Commissione Bilancio della Camera sono a questo punto 2.140 su 3.360 inizialmente presentati. Infatti gli altri non hanno ottenuto, sono 1.220 che non hanno passato l'esame, ma gli altri andranno analizzati. Il tutto, qui sì, entra il tema di Renzi, delle primarie, il giorno dopo l'affermazione netta, devo dire, di Renzi come segretario del PD, e nel giorno in cui parti intere dell'Italia sono paralizzate dalla protesta dei cosiddetti forconi. In primo luogo una precisazione: alcuni ascoltatori da quando è iniziato il programma mi hanno martellato di sms al 349-238-6666 dicendo: lei deve dire che i poliziotti si sono tolti i caschi e si sono schierati con i manifestanti. Allora, una cosa che obiettivamente non ho mai visto, abbiamo visto a piazza Tiananmen chi ha memoria, ma insomma la questura di Torino spiega, cosa che anche noi risultava abbastanza evidente dai video che ci sono in circolazione, che alcuni poliziotti impegnati nei servizi di ordine pubblico si sono tolti il casco perché erano venute meno le esigenze operative che ne avevano imposto l'utilizzo, cioè la situazione era tranquilla. Ora, ma si può, io lo dico, avere la mala fede di scrivere questo? Un poliziotto che in servizio di ordine pubblico che si toglie il casco, si schiera con i manifestanti, viene, diciamo, sanzionato e condannato, come è anche giusto che sia? Ma si può scrivere una cavolata del genere? E questo dovrebbe essere il movimento che riporta serietà al paese? Io non mi sto, lo dico a molti che mi insultano, parando nulla, né per lo stipendio milionario che alcuni di voi mi attribuiscono, né perché sono schiavo dei padroni e altre cavolate di questo tipo. Sto solo dicendo, va bene la protesta, ma io non ho capito quale sia la proposta del Movimento dei Forconi di protesta in sto paese. Ne abbiamo avute a Sfare, a Iosa, vorremmo anche vedere delle reazioni poi nel momento elettorale. Comunque, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, da dove partiamo? Ci sono gli emendamenti del governo, però ci sono anche le dichiarazioni del presidente di Confindustria Squinzi, non tanto su Renzi, ma anche sulla situazione del paese, e poi quella di Letta sul del premier Enrico Letta anche sulla situazione economica italiana, perché insomma anche Letta ha detto, insomma, assicuro tutto il mio impegno all'Unione Europea, ma attenzione, ne vediamo dei segnali di ripresa l'anno prossimo, attenzione però a un atteggiamento anti-europeista che rischia di far macerie. Facciamo il punto su tutto dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Tema all'ordine del giorno il ritiro della fiducia, anzi credo che ieri i cittadini abbiano detto con molta forza che sia arrivato il momento di fare le cose, di fare sul serio. Quindi nessun problema sulla fiducia, dichiarazione di oggi di Matteo Renzi. Sui forconi, la protesta, va bene, io capisco la difficoltà di vivere con un parente in cassa integrazione, con un figlio disoccupato, ne parliamo da 2 o 3 anni, abbiate pazienza. Però due cose, ma sti forconi dove erano prima? Cioè in questi 20 anni chi l'ha governato sto paese? Un complotto pluto-giudaico-massonico del gruppo Bilderberg che ha imposto il voto a certi partiti? Allora ognuno si assuma le sue responsabilità, andate a vedere anche le ultime elezioni cosa hanno preso i partiti storici di questo paese e basta, vuol dire che c'è una parte del paese che ancora si vota PD e PDL, ok, oltre al 5 Stelle. Uno, due, bloccare il traffico in Liguria, in Piemonte, in Veneto, in Lombardia, coinvolgendo privati cittadini che stanno andando a lavorare, è il modo migliore per dare una bella lezione alla classe politica? Boh, a me sembra la solito assalto ai forni di Manzoni nella memoria. Comunque, Guido Gentili, Enrico Letta stretto tra il voto di fiducia, l'affermazione di Letta, Barroso oggi a Milano, ne parlavamo prima, anche a livello informale non ha attaccato la Germania, ha detto sostanzialmente l'Italia deve cavarsela da sola, oltre gli strumenti che già abbiamo, e poi i forconi che si montano anche se con un po' di enfasi eccessiva. Guido. Sì, beh, è una situazione molto difficile per il Presidente del Consiglio Letta, che diciamo deve già fare una piccola verifica, diciamo, con il nuovo segretario del partito del PD, Renzi, che ovviamente oggi ha detto e non poteva che dire così, non è all'ordine del giorno un voto di fiducia sul governo Letta, però è chiaro che da oggi in poi noi diciamo dobbiamo attendere quelle che saranno le decisioni di un PD che si presenta totalmente nuovo e che quindi diciamo il perimetro dell'attuale maggioranza che sorregge il governo Letta sarà un po' stretto, diciamo, al nuovo Partito Democratico. Quindi io credo che da questo punto di vista ci saranno comunque delle novità presto, anche di tipo programmatico, con la scossa che verrà data sul piano, diciamo, programmatico dopo la scossa politica che ha dato Renzi. E ovviamente questo, diciamo, è il fronte interno, poi c'è un fronte che riguarda Bruxelles, l'Unione Europea, dove il sentiero è veramente molto stretto perché sono confermate, diciamo, quella che è l'atteggiamento della Commissione Europea, molto vigile sulla traiettoria del debito italiano e che viene considerato sostanzialmente divergente rispetto alle aspettative. E questo, diciamo, da un lato. Dall'altro lato lo stesso Barroso che oggi ha detto, come dire, ricordavi tu, che l'Italia dovrà cavarsela da sola. Sì, sostanzialmente. Quindi è una situazione molto complessa per Letta, insomma, da questo punto di vista. Allora, come si fa allora per farsi sentire? Ma che cosa vuol dire? No, rispondo a alcuni ascoltatori. Allora, uno, per farsi sentire, allora giustifichiamo tutto, gli attentati, qualunque manifestazione. Ma io dico una cosa. C'è modo di fare proteste, manifestazioni, anche civili. Scrivono nel frattempo molti ascoltatori che sono bloccati in Liguria, in Veneto, in Piemonte, da ore, e non è che capiscono molto il senso di questa protesta. Dopodiché, visto che dentro questo movimento c'è di tutto, ripeto, mi spiegate dove erano i forconi negli anni scorsi, che cosa hanno votato? Oppure hanno votato, diciamo, il politico che gli garantiva tutela la loro categoria specifica, visto che dentro ci sono anche degli autotrasportatori che non hanno firmato l'ultimo contratto. È questo a cui dobbiamo andare incontro? No? Poi però quando arrivano le elezioni, il politico promette la categoria tutela massima, i voti arrivano in massa lì, ma per favore, su. Andiamo avanti con il resto invece, Guido Gentili, perché a tuo avviso, nonostante le dichiarazioni di oggi di Renzi, di Letta, beccherà la fiducia, per carità, ti posso chiedere se in realtà la fragilità del governo non aumenti, nel senso che a me sembra anche che dal punto di vista del PDL si dovrà tener conto, e come, di quello che è successo ieri alle primarie del PD. Ma certamente, da questo punto di vista, dal punto di vista politico, il governo Letta non è più forte adesso, diciamo, dopo il risultato delle primarie del PD e su, diciamo, anche rispetto ovviamente alle spinte convergenti, in questo momento possono essere strumentali quanto si vuole, ma insomma questa è la realtà in questo momento, che diciamo, si stanno registrando sul fronte dei grillini da un lato e di Forza Italia dall'altro. Certamente la sentenza della Corte Costituzionale dei giorni scorsi per il momento, diciamo, ha congelato la situazione, perché ovviamente è difficile che si possa raggiungere un'intesa su una nuova legge elettorale in pochi giorni, così da permettere eventualmente un ricorso alle urne anticipato, diciamo, ai primi di marzo, che questo poi è il termine utile su cui stiamo eventualmente ragionando, perché sappiamo che ci sono le elezioni poi europee il 19 di maggio. Quindi il percorso è molto stretto, però è anche vero che da qualche parte questa forza, diciamo, esplosiva del nuovo PD di Renzi dovrà in qualche modo manifestarsi, quindi anche se solo sul piano programmatico in questo momento e non a colpi di voti di fiducia, però è evidente che il governo si troverà in una situazione, diciamo, complessa da gestire nelle prossime settimane. Eh sì, anche sulla legge finanziaria ne abbiamo viste delle belle, comunque gli emendamenti vengono esaminati, ripeto, sono ancora molti, nel senso che nonostante la scrematura, chiamiamo così, ci sono 2137 emendamenti. Ultima domanda, ti chiedo una risposta sintetica. Letta, nel suo tentativo di battere i pugni in Europa, come ricordavo questa mattina da Giovanni Minoli e Romano Prodi, è più forte adesso con Renzi dietro o no? Ma questo teoricamente sì, nel senso che diciamo, tra i tanti paradossi della situazione politica e sociale italiana c'è che in questo momento, se vogliamo, esiste una maggioranza con grandissimi numeri, una maggioranza eurocritica politica nel paese, perché sappiamo della posizione del Movimento 5 Stelle, sappiamo della posizione di Forza Italia. Molte perplessità albergano anche ovviamente nel nuovo centrodestra, per non dire dei Fratelli d'Italia, della Lega Nord, eccetera, ma una posizione eurocritica forte è anche quella di Renzi, perché se noi andiamo a prendere il programma che si chiama Cambia Verso Italia, che ha presentato poche settimane fa, beh, insomma, lì ci sono delle critiche molto forti alla governance europea, al vincolo del 3%, si richiede anche un diverso ruolo della Banca Centrale Europea, quindi, diciamo, da questo punto di vista Letta potrebbe far leva su, diciamo, un ventaglio politico che è molto eurocritico in questo momento. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Siamo in conclusione. Allora, esiste un modo di protestare democraticamente? Gli scioperi lo sono, le manifestazioni si fanno, autorizzate con la questura, in modo da creare sì un disagio, ma non bloccare i cittadini che stanno lavorando. Terzo, ha ragione chi dice: ma perché i forconi non vanno di fronte, non so, alla regione Sicilia, con quello che stiamo raccontando da 3 anni, e bloccano i cittadini che viaggiano in macchina? Volete sapere se penso che ci sia un po' di fascismo in questo forcone? Non lo so, c'è dentro di tutto, dagli ultras a Forza Nuova, a cittadini normalissimi e assolutamente civili, al movimento LIFE del Veneto, ma quello era il movimento che sosteneva che il Veneto dovesse staccarsi, diventare indipendente dal resto d'Italia. Ma vogliamo ancora andare avanti con sta cosa? È così che affrontiamo la globalizzazione? Ma dai, su. Veneto autonomo, mi mancava questo oggi. Buona serata a tutti, domani sono in ospedale, non per i forconi. Ma Focus Economia, regolarmente condotto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo dal mercoledì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.